Così ha detto il questore di Genova Filippo Piritore alla festa della polizia. Parole inattese, capaci di squarciare un velo su un fenomeno che all'ombra della lanterna è sempre rimasto appeso tra pudori e reticenze. Ora invece il pericolo è conclamato, vuol dire che in questa striscia di terra tra il mare e i monti la piovra ha posato i suoi tentacoli, come un fantasma, silenziosa, senza palesarsi, capace di scansare le attenzioni con un'operazione di diabolica mistificazione, senza guerre, senza morti ammazzati. Cristian Abbondanza, della Casa della Legalità, da tempo denuncia le infiltrazioni della criminalità organizzata nel tessuto economico genovese. Ma che mafia è? Ha un controllo del territorio comunque di ampie zone, non un controllo militare come avviene al sud. Qui cerca di operare con tutti gli accorgimenti necessari e utili per essere insabbiata, essere tra virgolette rendersi invisibile. E non è solo la mafia prettamente criminale, quella che si occupa di traffico di droga, spaccio, prostituzione, immigrazione clandestina, armi, ma è anche e soprattutto la mafia dei colletti bianchi, dei cosiddetti imprenditori professionisti che, diciamo, da una parte operano nell'infiltrazione negli appalti pubblici e quindi inserendosi nell'economia legale, soffocando l'economia sana, e dall'altra per il grande riciclaggio che soprattutto dietro al colate di cemento, le speculazioni edilizie sono sempre state uno dei tasselli fondamentali degli affari delle mafie. A Genova la piovra è trasversale, non è questione di etichette ma di accordi ed equilibri economici costruiti su solide spartizioni di affari e territori di influenza. La mafia indossa giacca e cravatta, parla forbito, non ha bisogno dei pizzini, ai palazzi bussa e qualcuno apre. La mafia nasce e vive per fare affari. Le attività criminali sono quelle che gli danno, da una parte il controllo del territorio, dall'altra la capacità di intimidazione e soprattutto quella ricchezza infinita di capitali liquidi da ripulire. Disponibilità che ad esempio in un periodo di crisi le ditte normali, società normali, imprese normali non hanno. E la mafia facendo questo non è criminalità comune, lo fa avendo un rapporto con il potere politico ed economico. Altrimenti la concezione della mafia, quella diciamo da strada, ormai si è persa da un bel po' di decenni se non da un secolo. Quando la mafia è in un territorio e opera in appalti, opera nell'economia locale, significa che qualcuno la porta gliel'ha aperta, perché altrimenti le concessioni, le licenze, gli incarichi di fornitura piuttosto che di lavori, di manodopera o servizi, da soli non se li possono prendere. Salvo episodi rari e circoscritti, a Genova nessun commerciante ha mai denunciato di pagare il pizzo, eppure in certi quartieri accadrebbe regolarmente. Ma intanto lo si paga in alcune parti del territorio, non in tutte, lo si paga con cifre molto basse, ma che permettono di avere la garanzia del controllo di quei territori. Prendiamo ad esempio Certosa. Certosa è una zona dove ad esempio è radicata una delle colonne portanti della decina dei Gelesi e lì hanno bisogno di mantenere un controllo del territorio capillare, perché se succede qualcosa non devono essere chiamati i carabinieri o la polizia, ma devono essere chiamati i capibastone. Questo gli serve il pizzo, a controllare il territorio, a essere loro quelli che vengono chiamati, perché così tengono tutto sotto controllo e garantiscono un'apparenza di pace, di normalità. Le mafie a Genova, come in altre parti d'Italia e in Liguria, si coordinano benissimo tra loro, sia le mafie italiane e anche le mafie straniere, che molto spesso vengono utilizzate qui come manovalanza. Ora lo dice il questore, in passato anche il sindaco di Genova Marta Vincenzi aveva fiutato le infiltrazioni mafiose, in particolare nel centro storico, eppure alla luce dei risultati l'azione investigativa è quasi insignificante. Perché? Cioè, intanto la voglia di non volerla vedere, perché che si è costruito nei decenni un equilibrio perfetto. Qui non ci sono più degli anni, a parte la parentesi della guerra tra virgolette tra clan dei primi anni 90, si è tutto riappacificato e ripeto, coordinano benissimo, perché così non danno nell'occhio. Quindi non si crea l'allarme sociale, non essendoci denunce, perché in Liguria, a Genova c'è un'omertà spaventosa. È difficile quindi poter avere elementi su cui aprire inchieste. I reparti investigativi, dalla DIA al GICO ai NOE, operano molto bene. Il problema è che qui vi è, a parte alcune rarissime eccezioni nella DDA, vi è la mentalità che non bisogna andare a fare inchieste e procedere su reati di corruzione o di mafia quando si vanno a intaccare gli equilibri politici e istituzionali. E allora uno non fa la lotta alla mafia. La seconda edizione di Italia in Controluce termina qui. Tutte le puntate nel nostro archivio, nel sito www.radio24.it. Su Facebook potete iscrivervi al gruppo Radio 24 Italia in Controluce. Domani alle 6.30 una nuova puntata su Radio 24.